Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. In studio Gesuina Maccari ed Antonio Ceccato. Eccoci qua, cari ascoltatori, anche stasera, col nostro affettuoso saluto, da Gesi. E da Antonio. Ecco, ciao Antonio. Ciao Gesi. Ah, meno male che sei qui oggi presente. Fisicamente. Sì. Beh, prima di darti la parola, possiamo anche presentare il nostro ospite? Oh, naturalmente. Ecco, un ospite di tutto riguardo, di tutto rispetto, naturalmente. Un ospite che sembra uscito da una stampa ottocentesca. Un ospite che piace anche agli ascoltatori. Decisamente, molto. Un cultore della tradizione e per il quale bisogna guardare indietro per poter andare avanti. Il nostro amico poeta, imprenditore, eccetera, eccetera, eccetera. Tiziano Spigariol. Buonasera Tiziano. Buonasera a voi e buonasera a tutti i nostri radioascoltatori. E bentornato. Grazie. Sempre gradita presenza. Ah, certo. E allora cominciamo con un cordiale saluto alle amiche e agli amici di Blu Radio Veneto in questa nuova avventura sulle ali dei ricordi. Il nostro indirizzo internet è bluradioveneto.it e ricordiamo la possibilità di ascolto in streaming e il relativo download della trasmissione. Senza dimenticare un saluto cordiale naturalmente al nostro coordinatore. Esatto. Bene, allora prima di dare la parola al nostro Tiziano, cominciamo con una canzone cantata da Raffaella Carrà. E anche così, per la come seconda trasmissione, facciamo ancora gli auguri a tutti i nostri ascoltatori. Tanti auguri! Cadesse il mondo, io mi sposto un po' più in là. Sono un cuore vagabondo che di regole non ne ha. La mia vita è una roulette, i miei numeri tu li sai. Il mio corpo è una moquette dove tu ti addormenterai. Ma girando la mia terra io mi sono convinta che non c'è odio, non c'è guerra. Quando a letto l'amore c'è, com'è bello far l'amore da Trieste in giù. Eccoci di nuovo in studio e diamo la parola al nostro Tiziano, che oggi stasera ci parlerà di che cosa? Io incomincio un po' con con questo argomento, poi va bene, dopo vediamo, per poi vediamo poi come si dipana la questione, come matura la situazione. Certo. Sempre a disposizione. Volevo dire prima che un San Martin brutto per quasi tutti, stanno sì. passato, sì. 2013 è brutto, è stato, sì, con quasi niente lavoro e tante tasse. Ma sì. Disea queo, basta salute, ma come anche al lavoro te sviissi, non te gaschei, non te puoi comprar, a mogliere i fiori te guarda mal, e anche a cercar non viene neanche a priori, ma l'impegno per tutti agada a cambiare. E con la speranza e con l'impegno a farla cambiare, intanto è nata Nuova Via. Oh, Nuova Via. Ecco, questo è... Associazione no profit rivolta al sociale. Ah. Particolarmente tesa a sostenere, avvicinandoli al comparto agricolo, giovani disoccupati, ma anche anziani bisognosi, favorendo al contempo un passaparola fra generazioni apparentemente così lontane. La filosofia che sta alla base di questo progetto è l'autosufficienza. Quello che un giorno era normale e quotidiano, oggi diventa materia di studio. Nasce così la scuola dell'autosufficienza, intendendo per autosufficienza la capacità di essere produttori efficienti di qualunque cosa si possa fare con le risorse a disposizione. La misura non conta, è una concezione pratica e filosofica che si somma tassello dopo tassello, esperienza dopo esperienza. Noi ci stiamo provando. Ma questa onlus non è una onlus, sì? Ma il buon Dio sa quando riuscirà a diventare onlus. Per il momento siamo in mezzo a un impasse burocratico. In mezzo al guado, diciamo, come inevitabile che sia. Diciamo regionale e con l'Agenzia delle Entrate per verificare la possibilità che questa nostra, credo, meritevole azione sociale abbia effettivamente anche a livello burocratico un riscontro positivo. Certo, anche perché mi pare che gli attori coinvolti in questo, questa iniziativa meritoria siano di tutto peso. Sì, sono incominciando geograficamente, diciamo per pertinenza geografica, il comune di Mogliano Veneto, la provincia di Treviso, la regione del Veneto, Veneto Agricoltura, Coldiretti Veneto, l'Associazione di Dottori in Scienze Agrarie e Forestali della provincia di Treviso. E poi per ultimi, ma per primi, perché abbiamo incominciato questa diciamo avventura fra virgolette, io e il caro amico Franco Malenotti, che sta mettendo a disposizione risorse e non solo. Ecco, questa è la cosa importante, diciamo, sì, stavo appunto per dire, sì, scusate se è poco naturalmente con questo parterre de roi, diciamo, non si può sbagliare, ecco, il che significa che cosa? Che c'è chi vuole metter mano e come dire, dare una possibilità a un qualcosa che è stato negletto per decenni, se vogliamo, giusto? Che è proprio quella cultura dell'autosufficienza, del riuso, eccetera, che è l'esatto contrario del consumo, del consumo, e butta, certo. Del consumo inutile. Del consumismo esasperato, sì, ed inutile, esattamente. Questa, quando è nata questa associazione? Beh, è nata nell'agosto del 2012. Ah, però... diciamo il 2013 è stato il primo anno di rodaggio, anno in cui però siamo riusciti ad utilizzare e a concorrere con un bando della Regione Veneto, particolarmente l'assessorato della Donazan all'istruzione e ai servizi, diciamo, non sociali, ma a livello di operatività, a livello anche imprenditoriale. Abbiamo partecipato a questo bando di concorso, dicevo, della Regione Veneto, finanziato dalla Comunità Europea, l'abbiamo vinto e abbiamo 8 giovani che stanno frequentando questo corso, prima di 136 ore di teoria, con eccellenti docenti universitari, e poi 400 ore di pratica, di esperienza pratica lavorativa in 8 diverse aziende orticole della zona. Ho capito. Quindi vengono sguinzagliati di qua e di là, diverse aziende, proprio per poter diffondere, diciamo, questo nuovo, e poi metteranno, perché si ritroveranno ancora in aula, metteranno diciamo assieme, scambieranno queste esperienze per verificare anche poi opportunità diverse, tipo una cooperativa, diciamo, di lavoro alla quale stiamo lavorando. Non ultimo è da dire che siano pur pochi, ma siamo riusciti anche in tutto questo progetto a fare in modo che questi 8 giovani alla fine del corso ricevono una borsa di studio di 1.500 euro. Insomma, bello, decisamente meritoria. Bellissima. Hanno imparato, diciamo, stanno imparando qualcosa e hanno anche un utile di impegno. Esatto, ecco, è uno stimolo a progredire, certo, diciamo, su questa strada. E sono volonterosi, cioè ci tengono a fare questo corso, lo fanno volentieri. Sì, si sono molto appassionati a questa cosa e hanno anche creato un bel gruppo fra di loro. Ecco, insomma, la provenienza di questi giovani? Beh, la provenienza è, diciamo, nel territorio Trevigiano, ecco, sì, e l'età va dai 25 ai 35 anni. Età giusta proprio. Giusta per poter essere. Anche magari, che so, futuri imprenditori agricoli, perché sappiamo quanto, diciamo, questo potrebbe essere una valvola di sfogo per, appunto, l'occupazione che non c'è. Cioè, sì, potrebbe essere una valvola di sfogo, anche se ci troviamo di fronte a problemi di mercato. Cito alcune cifre dell'ultima ora. Sì. Radicchio rosso di Treviso venduto all'ingrosso a 2 euro e pagato al contadino ad 1 euro. Quando poi lo troviamo a 5-6 euro in negozio, al supermercato, sono dislivelli. Dico, con questa realtà e con la tanta fatica, e ho citato il prodotto principe se vogliamo, della provincia di Treviso, esatto, ma potrei parlare di cappucci a 20 euro, a 20 centesimi al chilo, di verze a 30 centesimi al chilo, eccetera, eccetera. Sì, quindi, e dopo sul mercato sono, le paghi, ecco, a 3 euro. Diciamo che non è una premessa incoraggiante, certo, a livello di mercato, certo, per fare in modo che i giovani possano in maniera imbarcarsi in questa avventura, diciamo, ecco. Esatto, bene, ecco. Tiziano, ci fermiamo un momento per ascoltare un'altra canzone, la canzone che piace molto al nostro Antonio. Dillo tu, vale il titolo, di Love Letters in the Sand, Pat Boone. Molto bella. Come tradotto, come Lettere d'amore sulla sabbia. Bene, ascoltiamo. On a day like today, we pass the time away, writing love letters in the sand. How you laughed when I cried each Eccoci di nuovo in studio con il nostro amico Tiziano, il quale ci racconterà un po' della, come dire, rivoluzione alla base di questa opera, di questa iniziativa. Sì, allora, noi figli di un 68 particolarmente impegnato, turbolento, focoso, attivo, eccetera, eccetera, diciamo... anche figli, se vogliamo, di una certa rivoluzione sociale. Beh, oggi, sessantenni, abbiamo ripensato a questa rivoluzione e la nostra nuova ricetta è proprio questa, l'autosufficienza. Cioè fare in modo che... ciascuna persona possa essere consapevole, artefice, produttrice di ricchezza, di lavoro, di un sapere che si concretizza in un saper fare per poi diventare un saper essere. Alla base di tutto questo progetto sta quindi il rafforzamento dell'essere umano sotto questo profilo, consapevole delle sue autentiche possibilità. Bello questo concetto, sì. Saper fare per saper essere. Sì. Bello. Ecco perché diciamo abbiamo cercato di fare in modo che i giovani attori futuri di una nuova società possano avere certezza nelle loro possibilità, nei loro mezzi e così incominciare una vita nuova non solo per loro ma anche una vita nuova sociale. Ecco, se mi permetto di introdurre così una notazione, a me sembra che l'importanza fondamentale di questa iniziativa sia, oltre naturalmente al fatto dell'autosufficienza, ma anche al fatto di una riconquista dell'autostima, cioè di una riconosciuta, di una ritrovata capacità di stare al mondo. Non so se mi spiego, perché questo senso di sradicamento che abbiamo attualmente, di smarrimento collettivo, è dato probabilmente proprio da questa mancanza di punti di riferimento, di pietre miliari, sì, o sbaglio. E anche di valori, di tante e di valori, cose. Certamente. Sì. Io so fare, quindi sono. Esattamente. Sì. E quindi, Homo faber. Esattamente, esattamente. Quindi questo dà proprio questo rafforzamento, io mi ricollego a questo rafforzamento, proprio dal punto di vista spirituale, questa resilienza, questa capacità di resistere agli urti della vita, che sono inevitabili naturalmente. Sì, comunque è auspicabile che le cose cambino anche appunto. Certo, ma in questo modo siamo artefici del cambiamento, se non capisco male, diciamo. Sì, è proprio questa l'idea. Appunto. Ma avete molti iscritti nell'associazione? Beh, diciamo che l'associazione ha incominciato a funzionare con i 5 animatori promotori, sì. E promotori della stessa. Adesso cammin facendo e augurandoci anche di poter ottenere quell'agoniato 5 per 1000. Sì, sarebbe che troppo poco. Diciamo ci rafforzeremo. Sì. Consapevoli che abbiamo tanti amici. Ecco, questa è la cosa importante. Ci stanno certo. dando una mano. Questo è importante. Ecco, e quindi che credono in questa operazione, che credono in questa filosofia, diciamo, del fare. E quindi insomma siamo speranzosi. Ecco. Bene. Sì, perché, perché avendo fondi si possono fare tante cose in più. Esatto. Certamente. E come è stata individuata, perché qui ci sarà naturalmente una sede fisica di questa per poter come dire, fornire questa... La sede fisica è a Bonisiolo, è stata concessa dall'amico Franco Malenotti. E è stato acquistato anche del terreno, per l'esattezza 2,5 ettari di terreno adiacente alla struttura, diciamo, che ha messo a disposizione, per cui questo è l'embrione di questa è l'embrione della partenza. Bene. Stiamo lavorando a un progetto con Veneto Agricoltura per avere dell'altro terreno a disposizione per 20 anni e noi metteremo, diciamo, ristruttureremo un edificio di Veneto Agricoltura, cioè della Regione Veneto, che poi utilizzeremo per questi 20 anni assieme al terreno, e questo sarà lo scambio, diciamo, che l'opportunità maggiore che avremo in questo 2014. Scusa, ma lo utilizzerete in che modo? Beh, lo utilizzeremo come sala convegni, perché sì? Abbiamo in mente un progetto di 7 appuntamenti, 7 convegni sulla l'autosufficienza e l'agricoltura veneta come fatto storico, ma anche possibilità di riconcretizzare, diciamo, quest'antica usanza, questo antico modo di fare, questo antico modo di vivere. Sì, molto bello comunque. E poi vorremmo fare un museo delle attrezzature agricole venete. Ah, bello questo. E una parte la utilizzeremo proprio come spazio operativo. Per fare dei corsi. Per i ragazzi. Ah, certo. Per avere possibilità, diciamo, di un locale adatto in questo nuovo appezzamento di terreno, proprio per lavorare, sì, lavorare il prodotto. Certo. Perché questa è la differenza, diciamo, tra una fattoria didattica, cioè tra un far vedere, far conoscere, ma da un punto di vista semplicemente di spettatore, diciamo, i ragazzi o anche gli adulti, eccetera, e invece il coinvolgimento delle figure, coinvolgimento proprio a pieno titolo nel fare, nel costruire. A questo proposito, noi assieme, in collaborazione con il centro vivaistico di Veneto Agricoltura di Montecchio Precalcino, Vicenza, stiamo mettendo a punto un progetto per creare una fascia boschiva di piante da legno tipiche della pianura veneta, proprio da utilizzare come percorso didattico per scuole e per qualsiasi persona volesse, diciamo, fare una passeggiata in questo percorso, per poter riconoscere effettivamente tutte le piante da legno che... Molto interessante. È interessante, sì, certo. Anche perché ho l'impressione che questo si ricolleghi anche a un convegno che è stato effettuato da Veneto Agricoltura e l'Unione Europea nel 2001, se non ricordo male, sulle fasce tampone boschive proprio. Sì. Questo riconoscimento del valore di questi alberi, arbusti, eccetera, che per troppi decenni sono stati considerati un ostacolo alla cultura intensiva, alla ferrarese, se non ricordo male. Sì. No? Ecco, questo bisogno proprio di sfruttare l'ultimo centimetro che poi si è ritorto contro, perché si è visto che lo sfruttamento intensivo è privo di rotazione delle colture, eccetera, che poi nel successivo intervento sentiremo. Nei successivi interventi sentiremo, ha depauperato la terra, o sbaglio? Mi sa che tanti ragazzi non sanno neanche veramente il nome di un albero, di una pianta. Ecco, noi vorremmo essere anche produttori efficienti di ossigeno. Appunto, perché le piante... Se andiamo a sentire le ultime statistiche di Treviso e provincia, per quanto concerne la salubrità dell'aria, diciamo, ne avremo ben donde. Ecco. Penso che siamo proprio scarsi. di prego, ossigeno. Prego, Tiziano, continua pure. Sì, diciamo, questo era anche un modo per avvicinare concretamente non solo i giovani operatori, ma anche tutte le persone, diciamo, che vivono nei paraggi dell'associazione, per poter vedere, per poter toccare con mano quanto sia interessante, utile, madre e amica la natura. Estremamente importante. La natura proprio è madre e anche amica, veramente. Che chi non apprezza la natura ha poca sensibilità. Esatto. Vero. A questo punto andare con la terza canzone. Allora, che però è appunto richiede una presentazione. Sì, abbiamo una sorpresina. Il nostro Tiziano è anche paroliere. Lui, assieme a una signora che con lui fa spettacoli, Nancy Giolo, hanno composto una canzone. Allora, Tiziano ha composto le parole e la signora Nancy ha composto la musica, essendo musicista, no? Lei mi pare che insegni nelle scuole. Sì. Ecco, e anche è una cantante, e sinceramente è una brava cantante. Quindi oggi vi presentiamo questa canzone. Dal titolo Questo amore che cos'è? Questo amore che cos'è? Parole di Tiziano Spigariol e musica di Nancy Giolo. Sensazioni, fremiti e carezze, parole mie, ma questo amore, che cos'è? Implosione di baci, baci a perdere, solo baci, parole, ma questo amore che cos'è? Sensazioni, fremiti e carezze, Bene, torniamo in studio e ascolta Tiziano, tu appunto mi hai parlato prima di iniziare la trasmissione di spettacoli che fai assieme a questa signora che canta molto bene fra l'altro. E in cosa consistono questi spettacoli? Beh, allora sono dei monologhi musicati. In dialetto? In dialetto e in italiano, come parliamo noi durante la giornata. Ho capito. Antonio ogni tanto parla anche in inglese, no? Non è che ci sia anche Antonio, non è che ci sia anche Antonio che parla in inglese in questo spettacolo. Ma Antonio parla anche in spagnolo, io tento di fare qualcosa, anche in francese parla. Antonio e Poli. Boh. È Poli, sì, sì. Sì, parlano, diciamo, parlano di vita corrente, di vita normale, parlano di amore, parlano di tante cose. Di natura, per di natura. C'è uno spettacolo dal titolo L'acqua sede tutti, quindi... anche qui è un misto, diciamo, di rivendicazione, di santa verità, nel quale spettacolo vengono citati luoghi, cose, situazioni, fiumi, altre cose, insomma percorsi di vita che sì, sono lo specchio un po' delle nostre situazioni quotidiane. Io, diciamo, se mi passate questo termine, cerco di cantare la vita. Ah. Con il bello e il brutto della stessa. Esatto. Con il passato e il presente e con, speriamo, un sano futuro. Questo è auspicabile. Ma allora, gli spettacoli, sei tu che fai i monologhi? Sì, sono io che recito, sono spettacoli di prosa, poesia e musica. Sempre allestiti da te? Sì, allestiti da me. Non abbiamo un regista, non abbiamo... Fai tu da regista, da tutto, no? Ci arrangiamo, insomma, ecco. L'importante è che poi qualcosa succeda durante lo spettacolo e alla fine dello spettacolo. La cosa che più mi ha fatto piacere in questi anni è il vedere tante persone... che vengono agli spettacoli, che magari sono un po' titubanti, visto insomma la non conoscenza magari, degli argomenti, la non pubblicizzazione, diciamo, certo, degli stessi, eccetera, attraverso media o cose varie, ma di solito portati da amici di amici, eccetera, eccetera, e poi alla fine sprecano e si sbracciano in bis, in cose, in richieste ulteriori per continuare lo spettacolo, eccetera. Quindi vuol dire che la cosa funziona, vuol dire che il messaggio arriva, passa, ma soprattutto una cosa che ho notato e che mi ha fatto sempre un immenso piacere, tanta gente che si trova assieme perché deve stare seduta accanto non conoscendosi, alla fine dello spettacolo sembrano diventati, sì, tutti amici, e perché questo entusiasmo, diciamo, li accomuna, e quindi lo spettacolo stesso diventa motivo di aggregazione sì. Di, ecco, che diciamo per un certo periodo si passa dall'essere membri di una società a membri di una comunità, esatto, come eravamo un tempo, esatto, in epoca preindustriale, esatto, cioè la civiltà contadina era questo. Ma dove vi esibite? Ma in piazze, in piccoli teatri, ristoranti, anche in ristoranti. Ma qui da noi non l'abbiamo mai visto, facciamo cose strane, insomma, ecco, sì, ma sono sono cose per intenditori o per gente che vuole diventare intenditore, diciamo. Ma qui a Treviso ne avete fatto qualcuno? Sì, ne abbiamo fatto qualcuno anche sotto alla loggia dei Cavalieri. Lì abbiamo fatto l'Acquas de Tutti. L'abbiamo anche allo Spazio Paraggi, se non sì, allo male. Spazio Paraggi. Abbiamo lì alla loggia dei Cavalieri, visto che si parlava di acqua, abbiamo abbinato la cosa a un buffet di pesce d'acqua dolce, cose che portiamo avanti, appunto, cibi, tradizione, cultura della nostra terra. Ma adesso che non siete, per esempio, ai Paraggi, fatemelo sapere. Siamo stati l'anno scorso, in primavera, con la rassegna Arlecchin Batocio, che ha coinvolto scuole, ha coinvolto tutta una serie di associazioni e di cose varie, diciamo, in questa complessa manifestazione che era questo Arlecchin Batocio, che durava, mi sembra, 6 o 7 mesi. E lì, in quell'occasione, poi è stato presentato anche il mio ultimo libro, Tradanti. Però, insomma, siamo a disposizione per quanti volessero assaporare di nuovo il sapore di un'epoca antica, ma non passata, ma che probabilmente, diciamo, dovrebbe avere anche radici nel futuro, oltre che nel passato. Sì, è un po' lo stesso motivo, diciamo, che anima tutta la mia vita e tutte le mie attività, è quello, appunto, di rinverdire tradizione. E cultura, avete e anche radici del nostro popolo. Avete anche un numero di telefono? Avete nella vostra sede? Nella sede dell'associazione? Sì, sì. Sì, sì. Sì, se qualcuno così... Sì, curiosi eventuali, magari possono sempre trovare qualche riferimento, anche naturalmente possono anche riferirsi a noi. Sì, noi. Stiamo completando un sito, nuovavia.org, dove, insomma, a breve dovrebbe confluire un po' tutto quello che è il frutto, tutto il vostro, quello che fate. Lo stiamo mettendo a posto e penso che per la primavera dovremmo essere pronti questa vetrina. Questi spettacoli voi li fate anche per tirare su un po' di soldi per la vostra associazione, no? No, diciamo, la cosa è disgiunta, ecco. Gli spettacoli sono una attività, se vogliamo, che riguarda più la mia attività poetica e l'attività della Nancy musicale, ecco. Ma, diciamo, il tutto fa parte, ecco, l'atmosfera, diciamo, ecco, che si ricollega, diciamo, sono piccoli tasselli di un grande progetto, esattamente. Beh, bella cosa. Beh, ci fermiamo un attimo e ci ascoltiamo, da Peppino Gagliardi, La ballata dell'uomo in più. Era l'ultimo della classe, ma nessuno gliene voleva. Ogni giorno una cosa nuova e di tutti se la rideva. Poi la vita se lo rubò senza dargli mai più di un po'. Lui di questo si contentò fino a quando non lo scocciò. Voleva cogliere margherite, ma i campi in fior già non c'erano più. C'era una corsa di tante vite che in campi brulli cadevano giù. Lui non pensava, lui ne rideva. Andare avanti era un piacere. Andava in cerca di un qualche cosa che non sapeva ma che sentiva. Andava in cerca di un qualche cosa che aveva dentro, chiamato amore. Una bocca e due occhi neri non bastarono alla sua sete, per la luce che lui voleva non lo chiusero nella rete. Una musica lo portò dove niente lo disturbò, con il rullo che lo esaltò fino a quando non lo fermò. Lo colse in fronte una margherita e un fiore rosso blu per lui sbocciò. Fu questo il premio per una vita che guadagnava la libertà. È nato un campo di margherite. E insieme ad altri lui resterà. Non avrà un nome fra tante vite, non sarà l'ultimo, ma un uomo in più. Ed eccoci di nuovo in studio con il nostro amico Tiziano per un'altra tranche, diciamo, di questa interessante disquisizione su questa iniziativa innovativa, ma che guarda al passato, naturalmente. Sì, diciamo che lo slogan è sempre lo stesso: guardare in drio per non tornare in drio, no? Bravo. Scusa, guardare in drio per non tornare in drio. Sì. Cioè considerare il passato per evitare, diciamo, di ritornare proprio di un ritorno, di un degrado, diciamo. Esatto, allora diciamo che l'autosufficienza era la base fondamentale della vita di un tempo, però per com'era impostata l'agricoltura un tempo, volevo ricordare anche che alla fine dell'Ottocento qui si lavorava la terra ancora con l'aratro romano. Quindi fatiche bestiali, naturalmente. Quindi cioè con sì, pezzo di legno con il chiodo piantato, quindi, per cui diciamo la pellagra, sì. L'emigrazione. Sì, non c'era niente di romantico nella sì, nostra. Non, ecco, allora guardare in drio vuol dire prendere tutto il bene, tutto il meglio, tutto quello che si può recuperare. Che c'era di buono allora. Che c'era di buono, si può recuperare, diciamo, da quell'esperienza del mestiere della vita. Esatto. Non quell'esperienza di vita. Ovviamente, per fortuna, le cose oggi sono cambiate. Ma sono cambiate radicalmente. Potrei usare anche il proverbio: se stava meglio quando se stava a peso. No, sì, qua, io lo dico sempre questo. Quindi è sempre questo il senso dei discorsi. Sì, sì, allora, sì. andare a guardare la storia per non commettere gli stessi errori del passato. Ecco, sì, ecco, sì, sì, sì. Questo è giusto. Quindi non c'è niente di falsamente retro o di una ricerca... Di una nostalgia fuori luogo. Di una nostalgia fuori luogo, esattamente. Mm-hmm. Ecco. C'è un'esigenza sociale... che sta portando, diciamo, giovani generazioni allo sbando perché non gli viene offerta nessuna possibilità di lavoro, di vita, di fare una famiglia, di ecco. E quindi molto probabilmente, diciamo, la terra costituisce ancora, come da sempre, un punto d'appoggio, un valido supporto a ricominciare una vita diversa che non è solo lavorativa, ecco, è fatta di valori pregnanti e di realtà concrete, ecco, non sono realtà, la terra non è una realtà virtuale, è una realtà concreta. È altro che, ecco, concreta. Sì. Se noi la sappiamo amare, potremo ricavare ancora, nonostante tutto, grandi frutti e grosse soddisfazioni. Esatto. Io ho sempre vissuto in campagna, anche perché io adoro la campagna, veramente non c'è né mare né montagna che tengono per me. Sono contento di me, che vo solo per i campi, che me sento per terra, che me avoco posso, che mi rido comagno, che te penso e non basta, che vo a caccia con voi, che son quasi il mecan. Ecco, in questo finale di poesia, l'associare, diciamo, l'uomo al cane e fare dire all'uomo son quasi il mecan, sì, in senso... non certo dispregiativo, no, ma anzi come termine di riferimento, traguardo, come da traguardo da raggiungere, certo. Direi che è molto significativo. Certo. Tanto di rispetto per i cani, altro beh, che storia. E anche per altri animali, sì. Per esempio una volta si chiamava il Barba Porcel, giustamente, lo zio maiale, sì. Naturalmente c'era un grande rispetto evidentemente nella... chiaramente non si poteva fare conto su una, come dire, c'era una promiscuità che non era proprio il massimo, però si faceva di necessità virtù, ed è probabilmente questa è la grande lezione da imparare, questo fatto che occorre naturalmente adeguarsi alla realtà senza così infingimenti, senza voler stravolgere tutte le cose, senza fare qualcosa di contrario alla natura stessa dell'uomo, e un tempo si riusciva a fare. Adesso siamo troppo di fretta, purtroppo. Non abbiamo neanche il tempo di riflettere un po' sulle, esatto, cose. Due righe di riflessione sempre da tradanti. Sono riuscito con grande fatica a riservarmi finché durerà, e io lo spero per tanti anni, uno scampolo di mondo, del mio mondo. E sto dimostrando a quanti avessero la bontà di credermi che si può. Perché la natura risponde sempre se rispettata. Lei ti dà sempre, con alternanze ben si intende, dipendente dalle situazioni climatiche, meteorologiche e stagionali. Basta accontentarsi. I parametri naturali delle produzioni selvatiche sono ben diversi da quelli della dottrina industriale in uso. Basta accontentarsi. L'accontentarsi è la risultante del dono naturale della raccolta, il come, il dove, il quando, semplicemente frutto dell'esperienza individuale di ognuno di noi. E questa è la differenza tra l'accontentarsi e il pretendere di sfruttare all'estremo, è la differenza tra un stile di vita sano, ancorché spartano, eccetera, e il consumismo esasperato. Ecco, adesso abbiamo il consumismo esasperato, effettivamente. Noi con questa, diciamo, nuova antica filosofia vorremmo soprattutto ai giovani far comprendere che nulla avviene per caso, e pigiando un bottone e adesso forse si avvia un motore. Semplicemente. Ma bisogna pigiare il bottone giusto. Sì, la cosa che mi pare anche interessante, questo fatto del rispetto dei ritmi della natura, eccetera, anche il rispetto del modo di comportarsi della nostra campagna. Per esempio, le colture intensive che vanno di moda oggi, a prescindere da quelle che assorbono un'enorme quantità idrica e che quindi sono antieconomiche, eccetera. Ma il fatto che una volta c'era, per esempio, ogni 7 anni in epoca biblica, c'era, diciamo, la che rotazione. Bisognava lasciare, esatto, la rotazione delle colture. Che cosa c'è di nuovo, anzi, di antico in questo? Beh, diciamo che Questa esperienza, questo modo di fare è vecchio come il mondo. Sì, perché io sento sempre parlare. La terra va rispettata e non è una catena di montaggio. Quindi ha i suoi ritmi biologici, dipendentemente dalle situazioni climatiche, eccetera, eccetera. Stiamo vedendo nel corso di questi ultimi anni che il clima è cambiato, le stagioni, come si dice, non ci sono più. E quindi bisogna pretendere sempre meno a livello intensivo, quindi sicuramente con periodi di riposo, con periodi di rotazione, e con l'accontentarsi. Quello che mi dispiace è che non ci sono più le stagioni, non gusti più quelle belle primavere, quei belli autunni meravigliosi. Adesso hai l'inverno, che fino adesso è stato mite, e gli estati con un caldo umido che non ti lascia respirare. Forse ce lo siamo voluti, appunto. Noi, dicevo prima, convintamente cerchiamo di diventare produttori di ossigeno. Ecco, esatto. Allora, ci ascoltiamo una canzone. Sì, poi, l'ultima canzone. E poi saluto. Allora, Sergio Endrigo è mancato nel 2005 e dopo la sua morte hanno pubblicato un disco di canzoni inedite. Io così ho pensato di fargli ascoltare una ed è intitolata Il tuo caro Chopin. Sono parole scritte su una musica, un brano di Chopin. Spero che vi piaccia. Quando tu suonavi Chopin, io seguivo le tue bianche mani, ti venivo vicino, vicino, respiravo nei tuoi capelli e la sera, quando per caso noi si restava un po' soli, il mio desiderio, il mio sangue si accendeva per te. Cosa avrei dato, cosa avrei pagato per le tue mani su di me? Vorrei sapere se aspettavi un gesto mio, se lo stupido ero solo io, ma questo lo sapevo. Thank you. scordato anche il tuo nome, ma ricordo ancora il tuo odore e il mio desiderio, il mio sangue e il tuo caro Chopin. Eccoci di nuovo in studio con l'ultimissima tranche, diciamo, con il nostro amico Tiziano, e volevo fare una breve notazione, che è questa. Un'iniziativa di questo tipo, nel breve periodo, perché è stato breve, diciamo, dal pensare l'iniziativa a iniziare a metterla in atto, essere riusciti a coinvolgere istituzioni che in genere richiedono tempi biblici, eccetera, credo sia stata una delle ragioni che porteranno al successo, io sono convinto, questo tipo di iniziativa. Beh, è stato abbastanza facile, perché sono un bel uomo, ho gli occhi azzurri e quindi quindi tutto solo che gli enti non hanno mai soldi, tutto diventa facile. No, ma è importante, appunto, evidentemente ci si è resi conto che questa è la strada da seguire, diciamo, ecco. I bambini non sono sempre cattivi, qualche volta sono indisposti. Quindi gli aforismi sono fondamentali. Belli, diciamo, questi aforismi. Perché è un po' il retaggio della civiltà contadina, dalla quale naturalmente balza a tutto tondo il nostro ospite. E c'è in particolare un aforisma che vediamo se vado a memoria. Per il quale mi sono sempre chiesto quale cosa fosse il dire? Recondito significato. È in dialetto, quindi non ste andare in cerca desciosi in dove che frassa e gaine. Ecco, sì, vorrei che mi fosse molto spiegato. Molto semplicemente, le galline sono note per razzolare, beccare. Ma non mangiano gli sciosi? In ogni dove. Sì, sì, mangiano anche le lumache, sì? Gli sciosi. Tutto. E quindi è assolutamente inutile proprio andarli a cercare lì dove c'è un pollaio di galline o dove le galline dove passano e razzolano. Sì, sì. Già, diciamo, quindi, hanno già fatto loro tutto. Esatto, loro. Quindi tradotto, diciamo, nella vita corrente, non credete mai ai falsi miraggi, a tutto quello miracoli che vi raccontano, ma pensate effettivamente se il gioco vale la candela. E noi siamo a ringraziare naturalmente Tiziano per questa velocissima ora che è trascorsa anche stavolta, molto molto e interessante. Lo ringraziamo e lo invitiamo naturalmente per un'altra volta con le sue tutte la sua saggezza contadina, anche, diciamo, perché Tiziano ha sempre tantissime cose da dirci. Tiziano, benissimo. grazie mille, salutiamo tutti i nostri ascoltatori e come sempre vi dico ciao. Avete ascoltato Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. Questo programma lo puoi riascoltare su bluradioveneto.it.